Si inizia a cucinare molto presto nella televisione italiana e si continua instancabilmente e ininterrottamente fino a tarda sera. Tutti i giorni della settimana e su più emittenti contemporaneamente. Nessuno deve potersi sottrarre alla nuova dieta mediatica, anche se si tratta di uno strano regime alimentare, dato che, per quanto paradossale, è una dieta povera di cibi. Un riduzionismo organolettico attraversa e domina la gastronomia mediatica, come da tempo molti altri campi del sapere. Relegati a vita prettamente biologica e molecolare, quei cibi sono ridotti a nuda vita, a un'esistenza senza qualità, che si conserva al suo grado zero. Per trasformare i cibi in semplici sostanze si dispiega un imponente dispositivo che li scrosta dalla propria storia, che li riduce al silenzio le condizioni e le relazioni sociali che li rendono possibili, che li immonda di ogni statuto politico, vale a dire della loro natura sociale e relazionale. Per questo non ci si illuda. La massa in espansione dei nuovi cooking show non è segno di nessun interesse particolare per il cibo. Nessuna democratizzazione gastronomica è in corso, nemmeno nella forma minima, domestica ed economica di una nuova alfabetizzazione alimentare. Tramite il cibo, prima si insegna il principio di giusta disposizione dello spazio sociale, poi si educa all'auspicato ordine regolare della vita in comune, giusta, si dice, quando concorrenti solitari si battono fra di loro e contro il tempo per prevalere nel mercato di una esoterica valutazione di cui pochi iniziati custodiscono gli arcani segreti. Si tratta in sostanza di un sistema pedagogico per premi e punizioni che circola tramite il cibo, come concretizzazione letterale dell'antica formula del bastone e della carota. Ciro Tarantino per pastiche.